Madonna punto mia. A capo. Punto a capo. E mi pare una chiosa assolutamente doverosa. Ciao, ne. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ne. Ciao, ne. Bene. Buongiorno, signora contessa. Ciao. Favarolo, allora per finire in bellezza con una musica concia, lei sì. Ci parla di? Io le parlo di niente, perché... Ah, non ce l'aveva l'altra, ma lei è un sola. No, no, lei è un sola. No, ma se ha fatto lasciare la contessa perché mi ha detto ne faccio due. No. Ha preso lo zambaione, ne faccio due. Vai, se vuole parte pure con la base che io gli faccio quella di ieri, quella di venerdì. Ne fa una, no, quella che ha già fatto, ma no, per carità, mi faccio fare da lei delle cose già fatte. Ma no, ma è sempre di attualità. Ma me ne canti una all'impronto. Una all'impronta. Sì, con quale base? Con il perepe. Sì, allora vediamo se è capace come Benigni di fare il poeta braccio come Arezzo, forza. È arrivato il tappabuchi, è una cosa sola, certo fa. Ma che bastardo! Taratara pa pa pa pa pa. È tornato il tappabuchi, è una cosa bella, poi ti fa. Para pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa. E adesso io ce lo mando a Pautasso, sai perché? Pere pe pe pe pe pere pere pere pe pe pe pe pe. Non può fare mica il sola se non Bassignano manderà il Pautasso a fare para pa pa pa pa pa. Il Pautasso che è un armonico. Perché sì. Sa tirare gli strumenti ogni volta quando sei perché. Pere pepe pepe pepe pere pepe pepe pepe. Qui la chiudiamo, pere pepe pepe pepe. A domani, E colore ti diverte. Pere pepe pepe. No, no, questo non ci sta, non ci provi, non ci provi. Arrivederci, a domani. Pere pepe. Arrivederci, ciao, me ne vado anch'io, lasciamo il posto, finita la trasmissione, domani è martedì, domani è un altro giorno come diceva quello là, abbiamo chiuso, grazie, intanto la Vittola è arrivato a Poggio Reale, arrivederci. I'll be in my room alone, every pulse meridian. And I'll feel my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby when they give you. With my baby by and by. ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tutti i talebani coinvolti nell'attacco a Kabul sono stati uccisi, lo annuncia il governo afghano dopo 18 ore di combattimenti presso la sede del Parlamento e di diverse ambasciate. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 3 civili, 8 militari e 36 talebani. Scontri anche nell'est del paese, assaltata una struttura di polizia e un aeroporto. Aperto a Oslo il processo contro l'estremista di destra Anders Breivik, che l'estate scorsa in Norvegia ha ucciso 77 persone. All'ingresso in tribunale, Breivik, liberato dalle manette, ha salutato le famiglie delle vittime con il braccio teso. Il dibattimento sarà focalizzato sulla salute mentale dell'omicida al momento delle stragi. Riaprono ancora nel segno della difficoltà i mercati europei, in ribasso anche Piazza Affari, mentre risale lo spread del Bund tedeschi e BTP a 10 anni, che dopo la chiusura di venerdì a 379 punti si riporta in pochi minuti a quota 390. Dopo il ministro Passera, anche la Fornero apre a possibili modifiche in Parlamento alla riforma del lavoro. È comunque un buon accordo, ha detto, non bisogna stravolgerlo. Ieri la Marcegaglia ha chiamato il premier Monti. Il governo potrebbe accogliere alcune richieste delle imprese su partite IVA e apprendistato. Pagamenti di viaggio al presidente della regione Lombardia Formigoni e al fratello Carlo. Emerge dai verbali dell'inchiesta sul crack dell'ospedale San Raffaele di Milano. A farne parola l'imprenditore Piero Daccò, in carcere dal 15 novembre per un giro di fondi neri. Prevista stamani l'autopsia sul corpo di Piermario Morosini, il 26enne giocatore del Livorno, morto sabato in campo a Pescara. Unanime il cordoglio nel mondo del calcio, ieri fermo in segno di lutto. Alle 18, consiglio straordinario della Lega Calcio per decidere le date del recupero della giornata di campionato. Ed è tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi. Pronto? Parla Tancredi Di Marzio, falegname, idraulico, dentista, meccanico, astrofisico, carpentiere, avvocato, commercialista, ingegnere e architetto. In cosa posso aiutarla? Sul lavoro nessuno è completo ed efficiente come la gamma di veicoli commerciali Renault, la numero uno in Europa e l'unica con Kangoo ZE 100% elettrico. E ad aprile la gamma iSolution è tua da 190 euro al mese, con leasing 3,99% e 5 anni di assicurazione furto incendio ed RCA. Salvo approvazione fin Renault, fogli informativi in concessionaria. Ti aspettiamo sabato e domenica. Dal 10 aprile in esclusiva su iTunes, dal 17 aprile distribuito da Edel Music su CD in tutti i migliori negozi di dischi, sostieni e fai sostenere Piotta, Odio gli Indifferenti, con Pierpaolo Capovilla dal Teatro degli Orrori, Bud Spencer Blues Explosion, Francesco Di Giacomo dal Banco del Mutuo Soccorso, Rancore, DJ Mike, Buna from Africa Unite, rap, reggae, rock, differente, perché io odio gli indifferenti, Piotta. A tutti gli indifferenti! I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you? Yeah. Strade di Roma. Buona giornata, buon lunedì a tutti. Eccoci qua, Strade di Roma. C'è qui Alessandro Lemme. Buongiorno a tutti. C'è di là Roberto Rubino, perché comunque lui è colui che ci manda in onda questa mattina. E c'è a fianco a me Paolo Masini, come ogni lunedì. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Buongiorno. Dopodiché, a tutti. A fianco di Paolo Masini abbiamo la nostra ospite dello spazio settimanale con Paolo Masini, che è Luana Testa, che è presidente della libreria Amore e Psiche, di cui ci siamo già occupati, perché insomma è uno dei casi di difficoltà che qui versano queste librerie nella città di Roma, in particolare nel centro storico. Quindi Masini, forse possiamo proprio iniziare da qui. Beh sì, insomma, ringrazio Luana di essere qui, perché grazie, insomma, a voi. Amore Psiche è una di quelle realtà che fa bene alla città. Siamo. Prego. La rima è venuta così. Sì. Vedi, però ce la potremmo giocare nel futuro. E stiamo di fronte a una desertificazione culturale importante a Roma, anche e soprattutto forse nel centro storico. E Amore Psiche è una di quelle situazioni, appunto, che è una situazione sana, ben partecipata da centinaia di persone, da migliaia di persone, anche insomma di belle persone, oserei dire. E il rischio che chiuda è un problema per la città. Io lo ricordavamo l'altro giorno con gli artisti di strada, siamo al bivio su due idee di città: quella che Alemanno ci sta tentando di proporre da tre anni ormai, che è quella della chiusura, dell'ingrigimento e del non partecipare la città, di non far partecipare la città. Noi crediamo invece che situazioni come queste debbano essere aiutate. Veniamo dalla soluzione della vertenza Bibli dopo tanti anni. Noi confidiamo che anche con l'aiuto, devo dire che l'assessore Gasperini finora si è dimostrato disponibile, in parte anche il presidente della commissione Mollicone, noi ci auguriamo in qualche maniera riusciremo a salvare o comunque a mantenere viva quella realtà che per noi è importantissima. Vogliamo parlare un po' di questa realtà? Ci facciamo raccontare qualcosa da una testa, insomma, sì. Visto che sono più di 20 anni di attività, tra l'altro è un luogo particolare, perché lì insomma comunque c'è anche tutta un'associazione intorno alla quale insomma c'è anche tutta il gruppo di Massimo Fagioli, no? Dell'analisi collettiva. Ecco, quindi sì. Insomma sono tanti elementi che tengono insieme questa realtà. Sì, sì, esattamente. Infatti la nostra libreria, appunto, non è una semplice libreria, perché si può essere libreria. Ma è un luogo come... bellissimo anche questo, ecco, insomma, dal punto di vista architettonico, non a caso. Questo non è casuale. L'architettura è infatti stata ideata dallo psichiatra artista Massimo Fagioli, e per questo siamo stati riconosciuti anche bottega storica, sia perché in quei locali c'è una una libreria addirittura dal 1927, noi siamo subentrati nel 1992, abbiamo compiuto 20 anni, abbiamo fatto questa bellissima festa sabato scorso, pensate che la diretta ha contato più di 700 contatti, la diretta internet, e più centinaia di persone che hanno partecipato tutto il pomeriggio, e abbiamo raccolto più di 3300 firme per questo appello per il sostegno della libreria Amore e Psiche, quindi siamo molto amati. Facciamo questa attività culturale che quindi caratterizza questa piccola libreria, cioè non è che noi vogliamo entrare in competizione con i mega store o le grandi rivendite di libri, noi però pensiamo di essere caratterizzati da questa attività culturale che appunto da 20 anni. Però qual è il problema? I libri non li vendete? No, li vendiamo, beh certo un po' di crisi c'è, però noi possiamo contare sicuramente su degli affezionati clienti che vengono appunto da 20 anni, ci conoscono, vengono anche da altre città italiane, e il problema è che la libreria è stata sfrattata dall'albergo lì vicino, che è il proprietario dei locali, e noi abbiamo sempre pagato regolarmente l'affitto, però siamo stati sfrattati per fine locazione, c'è stata una causa, la cosa l'abbiamo persa a novembre scorso in primo grado, e ora vogliono sostituire la nostra libreria con un centro benessere. E questo è un po' il punto, no? Esatto. Come la delibera degli artisti scegliere, anche volendo pensare a un'altra sistemazione nel centro storico, c'è il problema degli affitti troppo alti comunque, anche certo, ipotizzando o comunque noi stiamo vedendo alcune ipotesi, uno chiaramente è quelli di farli rimanere là perché stanno lì storicamente, e poi il fatto che una spa prenda al posto di una libreria così importante, insomma, non fa bene solo pensarlo, altrimenti chiaramente proveremo con la proprietà tutte le strade possibili, e poi confidiamo comunque con l'aiuto dell'amministrazione attraverso il Dipartimento Patrimonio di trovare soluzioni sempre abbastanza, insomma, intorno. A voi fino ad ora luogo non è stato proprio proposto un altro contratto? Assolutamente no. No, è quello uno dei punti particolari. Assolutamente no. Sì, infatti noi speravamo in questo, almeno per provare a vedere se c'era una possibilità di trattativa anche su un eventuale canone, sicuramente aumentato, però noi speravamo, invece ecco, noi a questo punto contiamo molto sull'assessorato alla cultura, su Gasperini, che ci possa aiutare a trovare un altro spazio adeguato, perché noi siamo un punto di riferimento non solo per i quartiere ma per tutta la città. Finora quali risposte avete avuto dall'assessorato alla cultura? Siamo in attesa di un incontro diretto, nel senso che Gasperini ci ha promesso un aiuto, so che si è incontrato già con la proprietà due volte, adesso siamo in attesa di un incontro diretto tra noi e lui per capire che spazi ci sono, sia per avere anche la possibilità di andare via con una certa tranquillità da lì. Quali sono i tempi? Ecco, noi purtroppo abbiamo avuto già due accessi dell'ufficiale giudiziario, il terzo ci sarà il 10 maggio e ancora noi non sappiamo se il 10 maggio tornerà con la forza pubblica o meno, ecco, vorremmo una garanzia, un aiuto da Gasperini in questo senso, cioè che si possa rimanere lì un tempo adeguato finché non troviamo una nuova sistemazione, perché appunto ripeto siamo un punto di riferimento, siamo amati da molte persone al di là del gruppo dell'Anesi Collettiva, noi siamo amati da tante persone anche al di fuori di questa realtà. Guarda, sabato si è svolta appunto questa grande festa, malgrado il tempo non proprio idilliaco, è partecipatissima, e c'è un'altra cosa da dire, che anche se si volesse realizzare la spa unendo, a parte ci sono anche dei problemi tecnici perché non è che si possa rompere il muro che unisce la libreria siamo in pieno centro storico in una zona protetta, ed inoltre per 5 anni non si può fare una variazione di destinazione d'uso, perciò per 5 anni comunque la spa lì non si farà. Pertanto io confido che la proprietà abbia la lungimiranza di continuare il rapporto con Amore e Psiche, perché credo che è una cosa che potrebbe far comodo anche a loro. Tra l'altro ricordiamo che lì in quella zona lì poi ci sono, se ricordo bene, lì accanto c'è anche un negozio di paramenti, sì, sacerdotali, una zona, insomma, no? Sì, di, no? Sì, di vestiti, sì, della Pigna. Sì, sì, sì. Quindi insomma quello non è il rischio, quello no, quello no, quello no, quello no. Va bene, insomma. voi, questo è per dare un po' anche un'idea, perché effettivamente voi siete in mezzo all'hotel da una parte, confinano con l'hotel, e dall'altra parte da questo esercizio, da questo negozio. Ce ne sono diversi all'interno, non è l'unico. Certo, ce ne sono moltissimi, anche poi continuando anche su Via del Gesù. Sì. Questa è una vicenda importante che segna tra l'altro un altro capitolo importante di quella che è la difficoltà crescente di questo, degli esercizi commerciali, quelli che fanno cultura, insomma, che hanno librerie e cose di questo genere nel centro storico, ma più in generale si inquadra anche in una crisi del settore, diciamo, del commercio, no? che sta colpendo il centro di Roma. Sì, questo senz'altro, però io vorrei sottolineare proprio l'aspetto culturale, perché io credo che il progresso di un paese sia importante non solo per l'aspetto economico, ma soprattutto per l'aspetto culturale. Cioè, il futuro del paese è nelle mani dello sviluppo culturale, perché senza questo non si va da nessuna parte. Quindi noi non siamo importanti solo come esercizio commerciale, come libreria, siamo importanti soprattutto come associazione culturale, perché appunto siamo anche associazione culturale. Ma anche l'anche l'avevo messo anch'io, Sì, infatti hai ragione, nel senso che se non sbaglio appunto fra pochi giorni il CNA e i commercianti faranno rete imprese farà appunto una fiaccolata contro la crisi, diciamo su tutti i giorni anche i suicidi, cioè si arriva al gesto estremo anche e soprattutto per causa della crisi, perciò è chiaro che c'è un problema generale. Poi quando questo problema coinvolge la parte culturale, che è quella che pensa al futuro, a mio avviso, che getta le basi per il futuro, è ancora più problematico, ma il problema coinvolge un po' tutto il mondo del commercio. La scorsa settimana è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale una mozione di Paolo Masini a favore delle onlus. Una vicenda un po' surreale, perché da sempre appunto le ONG, le onlus che realizzavano iniziative soprattutto nei parchi pubblici di Roma non dovevano pagare alcuna tassa all'amministrazione, anche perché le iniziative spesso servono per raccogliere fondi da destinare sulla cooperazione internazionale e mille altre iniziative che fanno ottimamente, devo dire, per realizzare i progetti. Il fatto che la stessa cifra, che poi alla fine bene o male veniva raccolta dalle associazioni, bisognava versarla appunto al Comune di Roma, in quello che io definisco il porto delle nebbie del bilancio di Alemanno, chissà poi a cosa andavano a finire, magari a Casa Pound o ad altri, era una cosa un po' imbarazzante. Ci siamo permessi di presentare una mozione, devo dire, sottoscritta da tutti i gruppi e votata da tutti, dove diciamo che appunto dovranno essere esentate da queste due gabelle che avevano, uno sulla pulizia, che comunque loro hanno sempre fatto, già dal punto legislativo ci sono le armi, diciamo, per tra virgolette punire chi l'avrebbe lasciato sporco il parco in questione, e l'altra era sull'assicurazione, insomma delle cifre enormi per situazioni davvero veramente non si possono equiparare assolutamente le attività delle onlus a grandi aziende anche internazionali che fanno iniziative nei parchi. Per ricollegarci al tema della tutela della cultura, si è molto parlato nelle ultime settimane del degrado intorno all'area del Colosseo, Centurioni sì, Centurioni no, insomma tutto questo gran parlare. Oggi si torna a scrivere di questo sui giornali, in particolar modo però dei famosi camion bar, quelli che, e ce ne sono tanti intorno al Colosseo e non solo, vendono hot dog, patatine e quant'altro. C'è chi dice, proprio tra i consiglieri, anche che c'è una volontà politica di non vedere, anche perché nell'ultimo periodo appunto si è parlato molto di tanti aspetti di quel degrado che è stato definito un succo intorno al Colosseo, ma non di questi camion bar, certo. O meglio, non ne ha parlato la politica. Noi è una cosa che denunciamo da tempo, se ne è occupata Repubblica a livello nazionale pochi giorni fa con due pagine rispetto al presidente della Commissione Affari Sociali, che risponde al nome di Giordano, ma soprattutto al cognome Tredicine, che a Roma è un cognome importante soprattutto su queste questioni. Sì, c'era tutta una cosa anche sulla famiglia dei Caldarostai, no? Sì, poi hanno fatto, in qualche modo hanno esteso le loro, insomma. Sì, provengono dall'Abruzzo, da alcuni decenni sono su piazza. come dire, hanno una serie di postazioni, e la cosa l'abbiamo denunciata da tempo, una cosa pesante, perché poi si parla molto di, no? L'amministrazione comunale attuale parla molto di degrado e di altro, ma poi alcune cose non vengono mai sottolineate. Noi abbiamo appunto alzato il tiro su questa cosa. Poi dispiace, in una città dove succede quello che dicevamo prima rispetto alle librerie ed altro, dove l'aridità culturale e sociale è sempre maggiore, questa persona tra l'altro è il presidente della commissione affari sociali, il vicepresidente è una persona che fa capo a Casa Pound. Io credo che insomma i problemi del sociale in questa città potrebbero essere gestiti in maniera più, come dire, più umana. E tra l'altro questa è una vicenda di cui noi ci occuperemo tra non molto, perché continueremo a parlare di quello che sta succedendo per questo gruppo di sedicenti centurioni, la loro vertenza, tra l'altro insomma è previsto oggi un altro sit-in. Dunque, poi c'è un'altra iniziativa, no, di cui vuole parlare Masini. Sì, pochi giorni fa ho partecipato appunto al 30° anniversario, che poi in realtà sarà il 30 di aprile, dell'uccisione di Pio La Torre. E il presidente Napolitano appunto ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla famiglia, consegnandola al fratello Filippo, insomma, che insieme a Franco La Torre sono un po' coloro che continuano con passione questo grande lavoro lanciato da Pio. E la cosa che mi ha molto colpito, erano lì appunto Napolitano, il presidente della Camera Fini, tantissime, Don Luigi Ciotti, che ha fatto un intervento come di consueto meraviglioso. La cosa che mi ha molto colpito è che insomma, mentre giustamente, dovutamente, con troppi anni di ritardo tra l'altro, si rende omaggio a una persona che ha dato la vita per noi, per il paese, tra l'altro inventando una delle leggi più pedagogicamente più belle, che è quella appunto Rognoni La Torre migliorata, cioè che dice togliamo i beni, perché è la cosa più fa male a un mafioso, gli togliamo il bene, e poi migliorata, oserei dire, da Libera e Don Ciotti alcuni anni dopo, dicendo restituiamoli alla collettività, ridiamoli a chi fa, potrebbe essere una soluzione per amore psiche, a chi fa del bene alle varie città. E da 3 anni, non troppo casualmente, appunto la Rognoni La Torre viene disonorata, nel senso che l'amministrazione Alemanno non solo non dà indietro alla collettività i beni confiscati, che sono tantissimi, ma dà cose importanti anche a piccoli appartamenti che possono anche servire, possono risolvere il problema di un'associazione o comunque anche dell'emergenza abitativa. Cioè noi negli anni passati, con le passate amministrazioni, abbiamo usato tantissimo quest'arma, insomma basti pensare alla Casa del Jazz dal punto di vista più mediatico, ma da tantissime altre situazioni. Da 3 anni non solo non vengono riconsegnati alla collettività i beni confiscati, ma a volte vengono dati anche in maniera imbarazzante a situazioni poco consone. E noi abbiamo voluto scrivere al prefetto, io insieme a tutti i capigruppi di opposizione, da l'UDC, API agli altri, Partito Democratico. Metterli a bando per restituirli alla città, crediamo sia un atto dovuto soprattutto di chi non ha giocato su queste cose, ma soprattutto ha perso la vita. Osservatorio sui beni confiscati alle mafie, questa insomma è un'altra delle proposte di cui ci ha parlato questa mattina Paolo Masini, che ringraziamo, così come ringraziamo Luana Testa. Grazie, presidente di Amore Psiche, per essere stata qui con grazie. Noi, bocca al lupo. Ne abbiamo bisogno. Crepi. sì! Un altro impazzito per il nuovo sito di giochi online. Vediamo un po'. Radiogame.it. Casinò, bingo, betting, giochi sportivi ed esaltanti sfide per gli amanti del poker! Sì! E vai! È impossibile resistere. Divertiti e vinci anche tu su radiogame.it. La tua radio ti mette in gioco. Gioca responsabilmente. È caldo, è freddo, è jazz. Da Dionne Warwick a Carla Bley, da Ahmad Jamal a Stefano Bollani. Dal 27 aprile al 1 maggio vieni a Torino. torinojazzfestival.it. Tutto gratuito. Il destino della ricerca è nei tuoi piedi. Dal 22 aprile al 6 maggio partecipa alla Walk of Life di Telethon. 8 mini maratone contro oltre 7.000 malattie genetiche. Si corre in tutta Italia, a Roma, Napoli, Potenza, Bari, Milano, Torino, Catania e Lanciano. Iscriviti e scopri di più su walkoflife.it. Partecipa anche donando un euro via SMS o 5 o 10 euro con una chiamata da rete fissa al 45595. Yeah. strade di Roma. 10:34, abbiamo ascoltato anche Cherry Ghost con Black Fang. Dunque, allora, Centurioni, la questione Centurioni va avanti, insomma, tra l'altro oggi è previsto un altro sit-in. Ieri c'è stata anche un'iniziativa scherzosa da parte di quelli del male, che sono andati lì con Asterix e Obelix a fare il paio con qualche centurione. Insomma, le foto ci hanno restituito una scena ilare. Qualcuno potrebbe averla presa meglio, qualcun altro potrebbe averla presa peggio tra i centurioni. È stato un blitz provocatorio. E poi c'è invece una proposta che può apparire provocatoria, ma non lo è affatto, da parte dell'ADUC, no? Noi siamo al telefono anche con il suo segretario, con Primo Mastrantoni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco. Lui ha pensato, diamo a questo punto una reale profondità storica, no? a queste figure e a questi figuranti. Ma sì, ovviamente, perché questo? Perché così come sono delle macchiette, insomma, no? Sono, quindi non hanno nessun valore, sono quello personale di prendere qualche soldo, qualche euro dai turisti. E invece, se noi possiamo in qualche modo dare valore ai siti archeologici con delle persone che si vestono come realmente come gli antichi romani, che magari fanno anche delle rappresentazioni nei siti archeologici, tutto questo assume aspetti diversi, assume un aspetto ludico per quanto riguarda diciamo le persone che assistono, ma anche storico, di acculturazione, perché si rivedono i costumi, gli usi dell'antica Roma. Ecco, questo c'è chi fa questo. Noi l'abbiamo al telefono, tra l'altro, perché Sergio Iacomoni, buongiorno. Buongiorno a tutti. È presidente dell'Associazione Culturale Gruppo Storico Romano. Che effetto le fa vedere questi figuranti, magari spesso con le scarpe da ginnastica, insomma, in versione un po' caricaturale? Beh, è ovvio che noi come gruppo storico, come associazione, ma credo che un po' tutte le associazioni di rievocazione del mondo non approvino questa cosa, però insomma riusciamo pure a capire l'aspetto umano. Certo, di chi deve comunque sbarcare in un aereo lo fa in questo modo, cioè, però voi fate questa cosa qua basandola su uno studio. Tra l'altro ricordiamo che voi siete anche parte della sfilata del 21 aprile, no? Del Natale di Roma, che cosa imminente. L'organizzazione. Quindi ci racconti un po' voi come vi muovete, cosa fate. Noi, guarda, io credo che proprio alla base di tutto ci sia la passione. Noi siamo partiti, abbiamo fatto il percorso inverso, quindi noi siamo partiti per passione e siamo andati avanti. E le cose che si fanno per passione, sai benissimo che è difficile che non riescono, perché la passione è un motore che va al di sopra dei soldi, no? Quindi la passione te li fa spendere i soldi, non te li fa guadagnare. Quindi uno cerca di fare un po' le cose nel miglior modo possibile, evitando possibilmente le critiche. Certo, è un po' difficile, perché insomma essere proprio filologici ai tempi d'oggi non è facilissimo, perché bisognerebbe tessersi la tunica con la lana di pecora, quindi c'è tutto. La filologia arriva fino a un certo punto, poi purtroppo ci dobbiamo fermare. Noi cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile, questa lo facciamo per divertimento, quindi un divertimento serio e sano. Senta, Iacomoni, per dare un po' più di profondità storica a questi centurioni, questi figuranti, diciamo, che stanno davanti al Colosseo, quanti soldi ci vorrebbero? Ma io penso che se si accontentassero ci vorrebbero non tanti soldi, pochi, perché alla fine, se fosse fatto in maniera seria, alla fine proprio sarebbe un servizio che darebbero ai turisti. Ovviamente il turista io credo che sia ben felice di pagare e non di strapagare, cioè pagare, offrire dei soldi per una foto, ricordo, tutti saremo d'accordo. Vedi, discorso, io prendo sempre il insegnamento dai popoli che vivono di turismo non avendo nulla. Quindi per esempio gli Stati Uniti, io sono stato a San Antonio e fuori il forte dove è avvenuta la battaglia di David Crockett, no? La famosa battaglia, c'è un signore vestito da sceriffo antico, quindi con la pistola, ma questo signore vestito da sceriffo non è un figurante, è un poliziotto vero, che hanno fatto un concorso per mettere delle persone in costume antico, però sono pubblici ufficiali, quindi oltretutto fanno anche il lavoro di sorveglianza. Ecco, sì, infatti stavo per dirle quello, insomma, attenzione che quello sta lì anche per fare lavoro di sorveglianza. Lì sì, fanno lavoro di sorveglianza, fanno lavoro di informazione, quindi sono preparati, diciamo, sanno dire due cose sulla storia di questo forte, e quindi alla fine questi signori non solo sono regolamentati, guadagnano dei soldi giusti, sono pagati ma fanno un vero servizio, un servizio pubblico. Allora, quindi, tornando anche da Mastrantoni, visto che voi vi occupate insomma della tutela, insomma, dei diritti dei consumatori, si può configurare anche nei confronti delle persone che si ritrovano, diciamo, avvolti da questi stuoli di centurioni figuranti lì intorno al Colosseo, anche insomma il concetto, se vogliamo, anche di molestia? Certo, se c'è un'insistenza della farsi fare le foto, addirittura, come ho letto su qualche giornale, addirittura un'insistenza un po' aggressiva per quanto riguarda poi il pagamento, certo c'è da una parte la molestia, da una parte altre configurazioni di reato, no? E tra altre cose questi figuranti, voglio dire, che stanno lì, che fanno queste cose, dovrebbero tra le altre cose avere delle autorizzazioni, perché da questa attività ne hanno un lucro, e quindi basterebbe fare un'ordinanza del sindaco sindacale per regolamentare il settore. Uno, due, voglio dire, si può, come abbiamo detto, si possono, se uno proprio vuole recuperare questa cosa, visto che ottiene anche magari anche un po' di successo, si possono ricollocare all'interno di manifestazioni, chiamiamolo storiche, culturali, e quindi da valorizzare il sito archeologico, valorizzare la società e anche dar mangiare, cioè dare uno stipendio o comunque una retribuzione a chi lo fa, insomma. Ecco, l'opera meritoria del gruppo storico che ho conosciuto 10 anni fa, ma forse anche di più, è quella di aver diciamo intanto riprodotto i costumi, le armature romane, attenendosi a quanto di storico c'era, insomma, no? E quindi anche dando una rappresentazione non fantastica, appunto, del centurione che ha le scarpe, poi le scarpe da corsa, scarpe da ginnastica ai piedi, ma dare una rappresentazione. Ma Frantoni, quindi serve, secondo lei serve. Il modo migliore, diciamo, quindi mi sembra di capire, per dare uno spessore, anche uno spessore culturale a queste figure, è quella di rendere un po' dipendenti dal Campidoglio, insomma, non esageriamo, l'assessorato alla cultura. Cultura, non che prendiamo gli impiegati comunali, devono diventare impiegati comunali. No, lasciamo aperto. Io voglio dire, ci sono delle collaborazioni che il comune fa con le varie associazioni storiche, culturali, artistiche, eccetera. Nell'ambito di queste collaborazioni si instaura un rapporto, no? No, non è che devono diventare dipendenti un po' come quella di Iacomoni, no? Che è partner di Roma Capitale per il 21 aprile un po' esattamente, si fa una cosa genere, si reinserisce all'interno di un'organizzazione, e poi, voglio dire, si possono fare una serie di manifestazioni, chiamiamole storiche, a cui poi magari per accedere alle quali magari il turista paga, no? E quindi c'è un contributo, si può vedere come mangiavano gli antichi romani, che cosa mangiavano. Si possono mettere pure dei figuranti che nei siti storici magari decantano brani o fanno rivivere momenti della storia romana. Insomma, voglio dire, c'è un modo per rendere, diciamo, anche più appetibile, tra virgolette. No? Io faccio un esempio. Quando c'è stato il film Il Gladiatore, l'anno successivo c'è stata un'impennata di turisti a Roma. Perché il film aveva stimolato la curiosità di molti turisti. proprio per vedere il Colosseo come era fatto. Certamente non hanno visto il Colosseo di 2000 anni fa, hanno visto insomma quel che è rimasto del Colosseo, però voglio dire, vivacizzarlo anche il Colosseo, anche con figure vere che riproducono scene di vita romana, modi, costumi, usi, eccetera, è un modo per rendere più appetibile il sito archeologico e quindi dare anche, attivare anche collaborazioni. Questo con, è chiaro che questo potrebbe essere l'altro, cioè l'aspetto quello insomma di recupero vero. Dunque, intanto ci hanno scritto al 38 897 700, per me i veri molestatori non sono, sono i venditori di rose, quando li regolarizziamo, ecco, questa, addirittura andiamo sui venditori di rose, non so se si può paragonare a loro, ma si può fare invece anche un paragone per esempio con i posteggiatori? Ma cioè, voglio dire, tutte, allora, la, io scrissi, mi pare, al sindaco di Alemanno all'inizio, quando fece l'ordinanza sui lavavetri, se voi ricordate, dicendo, guardate che non c'è bisogno di fare cose straordinarie, basta copiare, copiate Torino, che aveva messo un'ordinanza su questo tipo di attività, e le regolamentava. Dico, quindi si può, tutte le attività che si svolgono diciamo in pubblico, che comportano appunto la vendita, la cessione di beni o di servizi, possono essere regolamentate insomma da questo punto di vista, oppure uno può decidere di non regolamentare, ma insomma ci può, non si può fare come se a Roma, in una città come Roma, la non regolamentazione produce questi fenomeni. Produce questi, quello, certo, infatti si è chiuso prima un occhio quando ce n'erano due di diciamo di figuranti lì al Colosseo, poi ce n'erano quattro e si è chiuso sempre un occhio. Ora pare che, siano addirittura una cinquantina, pare addirittura che siano tra 40 e 50. Sono 40, è diventato poi un problema, perché come al solito in Italia si lasciano marcire le situazioni, poi si interviene, così come si sono lasciate marcire la situazione dei lavavetro, insomma, no? Per molto tempo la gente veniva addirittura minacciata, insomma, da, no? E come potrebbe succedere per qualsiasi altro tipo di attività, invece queste cose vanno regolamentate, quindi ognuno sa che cosa deve fare e anche il cittadino sa che rispetto a un'offerta di beni o di servizi sa come comportarsi e a chi riferirsi. Primo Mastrantoni, grazie anche a Sergio Iacomoni, buona giornata, grazie, buon lavoro. Grazie. Tra l'altro Iacomoni ci sarà il 21 aprile, sappiamo che verrà presentata oggi il Natale di Roma. Sabato pomeriggio, 21 aprile al Circo Massimo, e domenica mattina per il grande corteo con 1800 figuranti che vengono da tutta Europa, quindi non mancate. Ecco, tra l'altro quest'anno il 21 aprile capita di sabato, quindi insomma è tutto su un fine settimana. Perfetto, sì. Grazie. Vi aspettiamo, arrivederci, grazie a tutti. Siamo leggeri e pesanti, siamo un cristallo per gli elefanti, siamo in crisi, siamo uniti e divisi, siamo molto felici tra Non c'è nessuna via d'uscita. Trovati un posto in questa vita che siamo tanti. Siamo leggeri e pesanti. Siamo cristallo per gli elefanti. Siamo in crisi, siamo uniti e divisi. Siamo molto felici tra Roma e Milano. Siamo con te, siamo uguali a te. Siamo quello che siamo per sempre. Siamo quello che siamo per sempre. Siamo quello che siamo per sempre. Siamo quello che siamo per sempre. Per sempre. Strade di Roma. E allora, mentre i finti centurioni tornano a protestare questa mattina, questa volta si spostano, anziché al Colosseo andranno alla colonna Traiana, si continua a parlare anche dell'ordinanza per gli artisti di strada, insomma le nuove regole che sono state stabilite dal Campidoglio e che hanno generato proteste da parte di alcune associazioni che insomma in qualche modo rappresentano questo universo, insomma questo molto molto variegato che è quello degli artisti di strada. Però c'è chi protesta anche perché vorrebbe regole più restrittive. Tra gli altri c'è la consigliera municipale del primo municipio dei Verdi, Natalina Im, che ha detto: lunedì presenterò con Sergio Grazioli, presidente della commissione cultura del primo municipio, un atto che prevede di inibire ai suonatori e in genere agli artisti di strada una nuova serie di luoghi. Qual è il motivo del contendere in questo caso? Il fatto che nella delibera ideata dall'assessore Gasperini ci sia